6. Prima di scendere a cena, egli si affacciò al finestruolo della sua cameretta e rimase colpito dal silenzio profondo che regnava nel cortile, nel vicinato e nel paese. Gli parve di essere diventato sordo, ma la voce di zia Tatana risuonò nel cortile sotto il sambuco. Nania, figlio mio, scendi! Egli scese in cucina e sedette davanti al piccolo tavolo apparecchiato solo per lui, mentre i suoi genitori, al solito, cenavano seduti per terra intorno a un canestro colmo di focacce e di vivande. La cucina era sempre la stessa, povera e scura, ma pulita, col focolare nel centro, i muri adorni di spiedi e di taglieri, di grandi canestri, di vaglie, di setaci e di altri arnesi per pulir la farina. In un angolo c'erano due sacchi di lana colmi d'orzo. Accanto alla porticina spalancata stava appesa la tasca di cuoio per le sementi e le provviste da campagna del contadino. Un porchetto grugniva lievemente e sbuffava e sospirava legato al sambuco del cortile. Un gattino rossastro andò tranquillamente a mettersi accanto al piccolo tavolo e cominciò a sbadigliare, sollevando i grandi occhi gialli verso Anania. Egli si guardava attorno quasi con stupore. Ah, nulla, era mutato. Eppure gli provava l'impressione di trovarsi per la prima volta in quell'ambiente, con quel contadinone dagli occhi ancora fosforescenti e i lunghi capelli oleosi e con quella graziosa vecchia, grassa e bianca come una colomba. Finalmente siamo soli, disse Anania grande che mangiava l'insalata prendendola e stringendola fra due pezzi di focaccia. Ora non ti lasceranno più in pace, vedrai, a tonzo di qua, a tonzo di là. Sì, oramai tu sei un uomo importante perché sei stato a Roma, anche io quando tornai dal servizio militare. Che paragoni sono questi? Protestò un po' scandalizzata zia Tatana. Ebbene, lasciami dire. Mi ricordo che provavo difficoltà a parlare in dialetto, mi pareva d'essere in un mondo nuovo. Lo studente guardò suo padre e sorrise. Anch'io, disse. Oh, meno male. Io però dopo mi abituai di nuovo, mentre fra 3 giorni tu sarai stufo di restare in questo paese pettegolo e... La vecchia lo guardò corrugando le sopracciglia ed egli cambiò discorso. Che c'è dunque? Raccontatemi che cosa dicono di me? Domandò Anania. Ma niente, lascia gracchiare le cornacchie, rispose la vecchia. Egli si turbò. Per un momento dubitò che si sapesse a nuoro qualche cosa di Maria Obinu, depose la forchetta attraverso il piatto e dichiarò che non avrebbe continuato a mangiare se non parlavano. Ah, come sei impetuoso sempre tu! Osservò la vecchia. Diceva Re Salomone che l'uomo impetuoso è simile al vento. Ah, c'è ancora Re Salomone, disse Anania con voce acerba. La vecchia tacque addolorata. Il marito la guardò. Poi guardò Anania e volle castigarlo. Re Salomone diceva sempre la verità. Indi aggiunse: dicono a nuoro che tu fai all'amore con Margherita Carboni. Anania arrossì, riprese la forchetta, ricominciò a mangiare e borbottò: Che stupidi! Senti, no, non sono stupidi, riprese il mugnaio guardando entro il bicchiere a metà colmo di vino. Se la cosa è vera, hanno ragione di mormorare, perché tu devi dichiararti francamente al padrone e dirgli: Benefattore mio, io oramai sono un uomo, mi perdoni se finora le ho nascosto le mie speranze come le ho nascoste ai miei stessi genitori. Tacete! Voi non sapete nulla! Proruppe adirato e infiammato il giovine. Ah, Santa Caterina mia! Sospirò zia Tatana. Lascialo dunque in pace, quel povero ragazzo stanco. C'è sempre tempo a parlare di queste cose e tu sei un contadino e sei un uomo ignorante che non capisce niente. Il contadino bevette, scosse la mano per accennare: calma, calma. Poi parlò con voce tranquilla. Sì, io sono ignorante e mio figlio è istruito, va bene, ma io sono più vecchio di lui. I miei capelli, ecco qui. Se ne tirò un ciuffo sugli occhi, cercò e strappò un capello bianco. Cominciano a incanutire. L'esperienza della vita, moglie mia, rende l'uomo più istruito di un dottore. Ebbene, figlio mio, io ti dico una sola cosa. Interroga la tua coscienza e vedrai che essa ti risponderà che non si deve ingannare il proprio benefattore. Lo studente batté sul tavolo il bicchiere così forte che il gattino trasalì. Sì, figlio, proseguì il contadino, ricacciandosi indietro sulla testa e i capelli oleosi. Tu devi andare dal padrone, devi baciargli la mano e digli: io sono figlio di contadini, ma per grazia vostra e del mio talento diventerò dottore, ricco e signore. Io amo Margherita e Margherita mi ama. Io la renderò tanto felice che essa dimenticherà di essersi abbassata a scegliere per sposo il figlio del suo servo. La signoria vostra ci benedica nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. E se invece di benedirlo lo scaccia via come un cane? Domandò la vecchia. Va là, femminuccia! Esclamò il contadino, versandosi ancora da bere. Il tuo re Salomone diceva che le donne non sanno quel che dicono. Se io invece parlo, ho già pesato le mie parole, il padrone benedirà, benedirà. Ma se non è vero niente, proruppe Anania pieno di gioia. Si alzò, si avvicinò alla porta e si mise a fischiare. Non capiva più nulla, sentiva il cuore battergli forte. Il padrone benedirà? Se il contadino parlava così, doveva avere le sue ragioni. Ma perché Margherita non aveva mai accennato alle buone disposizioni di suo padre? E se le ignorava lei, come poteva conoscerle il servo? La vedrò fra poco, pensò Anania, e tutti i suoi dubbi, le ansie, la stanchezza del viaggio, la gioia stessa delle nuove speranze, tutto dileguò davanti al dolce pensiero. La vedrò tra poco. Al lieve tocco della sua mano, il portone s'aprì silenziosamente. Bentornato, mormorò la serva che favoriva la corrispondenza dei due innamorati. Ella verrà subito. Come stai? Egli chiese con voce commossa. Ecco. Prendi un ricordo che ti ho portato da Roma. Ma che cosa hai fatto? Ella disse, prendendo subito l'involtino. Ti disturbi sempre tu. Aspetta. Egli attese, appoggiato al muro ancora tiepido del cortile, sotto il cielo velato della notte silenziosa. E Margherita apparve. Ma più che vederla, egli la sentì. Sentì la guancia liscia e calda, il cuore balzante contro il suo, la vita agile, le labbra molli, e gli sembrò di svenire. Follemente cominciò a baciarla sui capelli, sul volto, accecato da una inestinguibile sete di baci. Basta e basta, ella disse, riavendosi per la prima. Come stai dunque? Sei guarito? Sì, addio, finalmente. Senti come mi batte il cuore. Ah, proseguì, respirando a stento e stringendosi la mano di lei al petto. Non posso neppure parlare e neppure ti vedo. Ah, se tu portassi un lume. Che dici, Nino? Ci vedremo poi domani, ora ci sentiamo. Ella rispose ridendo piano piano, mentre sotto la palma delle mani che Anania si premeva sul petto sentiva il cuore di lui palpitare, convulso. Come batte il cuore? Sembra quello di un uccello ferito. Ma sei guarito davvero? Dimmi. Guarito. Guarito, Margherita, dove sei? Ma siamo davvero assieme? Egli cercava di distinguere i lineamenti di lei nell'oscurità della notte velata. Grandi nuvole nere passavano incessantemente sul cielo grigiastro. Di tanto in tanto un lembo ovale di firmamento chiaro, circondato di cupe vaporosità, appariva come un viso misterioso con due stelle rossastre per occhi e pareva spiasse gli innamorati. Anania sedette sulla panchina e attirò la fanciulla sulle sue ginocchia. Lasciami, ella disse, peso troppo, sono troppo grassa. Sei leggera come una piuma, egli affermò. Ma è dunque vero che ti ho con me? Ah, mi pare un sogno. Quante volte ho sognato questo momento che mi pareva non dovesse giungere più. Ed ecco, ora, eccoci insieme, uniti, uniti, capisci, uniti. Mi pare di impazzire, ma sei davvero tu, Margherita? Ma è proprio vero che ti ho qui sul mio cuore? Parla, dimmi qualche cosa, altrimenti mi par di sognare. Tocca a te raccontare. Io ti scrissi tutto, tutto. Parla tu, Nino, sai parlare così bene, tu. Raccontami di Roma, parla tu, io non so parlare. Ella mormorò, turbata. No, invece no, tu sai parlare benissimo, tu hai una voce così dolce, io non ho mai sentito una donna parlare come parli tu. Non dir bugie, ti giuro che non mentisco, perché dovrei mentire? Tu sei la più bella, tu sei la più gentile, la più dolce tra le fanciulle. Oh, se tu sapessi come pensavo a te quando le mie padroncine a Roma nei primi tempi si buttavano addosso a me e a Battista Daga. Mi pareva d'essere accanto a creature appestate e pensavo a te come a una santa, soave, pura, fresca e bella. No, ma anche io adesso non bestemmiare, Margherita, egli proruppe. Noi siamo sposi. Non è dunque vero che siamo sposi? Dimmi di sì. Sì. Dimmi che mi ami. Sì, no, non sì soltanto. Dimmi così. Ti amo. Ti amo. Se non ti amassi, sarei forse qui? Ella chiese poi animandosi. Ti amo, sicuro. Io non so esprimermi, ma ti amo, forse più di quanto mi ami tu. Oh no, no, non è possibile. Ma anche tu mi ami, lo so, egli riprese. Tu che sei bella e ricca. Ricca. Chissà. E se non lo fossi? Oh, sarei più contento. Tacquero seri entrambi, quasi dividendosi per seguire ciascuno il proprio pensiero. Sai dunque, egli disse a un tratto timidamente, seguendo il filo delle sue idee, mi ha riferito che la tua famiglia sa del nostro amore, è vero? Vero, ella rispose dopo breve esitazione. Ah, cosa mi dici? Tuo padre, dunque, non sarebbe contento? Margherita esitò di nuovo, poi sollevò il capo e rispose con freddezza: Non lo so. E dall'accento di lei Anania intuì qualche cosa di triste e di insolito, e la sua mente corse a lei, al fantasma che forse si intrometteva fra lui e la famiglia di Margherita. Senti, disse pensieroso, carezzandole distrattamente le mani, devi rispondermi con franchezza. Che cosa succede? Posso o no aspirare a te? Posso sempre sperare? Tu sai bene quello che io sono, un povero, un beneficato dalla tua famiglia, il figlio di un tuo servo. Ma che dici? Ella esclamò impaziente più che addolorata. Tuo padre non è affatto un servo e quando lo fosse è un uomo onorato. E basta. Un uomo onorato, ripeté fra sé Anania colpito nell'anima. Oddio, ma lei non è una donna onorata. Margherita, insisté sforzandosi invano a restar calmo. Bisogna che tu mi apra tutta l'anima tua e che mi guidi e mi consigli. Dimmi tu che cosa devo fare. Devo aspettare? Devo agire? Il mio orgoglio e la mia coscienza mi imporrebbero di presentarmi a tuo padre e dirgli tutto, altrimenti egli può considerarmi come un traditore, un uomo senza onore e senza lealtà. Però io seguirò i tuoi consigli, tutto, fuorché perderti. Sarebbe la mia morte questa, la mia morte morale. Io sono ambizioso, vedi, e lo dico altamente perché, ove tu non venga a mancarmi, la mia non sarà un'ambizione sterile. Tu sei lo scopo della mia vita. Se tu mi venissi a mancare, io non avrei più forza né volontà di fare bene. Se tu però mi dicessi, io amo un altro, ebbene, io... Basta! Basta! Taci ora, comandò Margherita. Sei tu che bestemmi adesso. Oh, piove. Una goccia d'acqua era caduta sulle loro mani intrecciate. Entrambi sollevarono il viso e guardarono le nuvole che ora passavano più lente, più dense, mostri nebulosi e torpidi. Senti dunque, disse Margherita, parlando un po' distratta e frettolosa, come per paura che la pioggia interrompesse il convegno. Noi non siamo più ricchi come prima. Gli affari di mio padre vanno male. Egli poi ha prestato denari a tutti quelli che glieli hanno chiesti e che non li restituiranno mai. Egli è troppo buono. La nostra lite col comune di Orlei, quell'eterna lite per le foreste incendiate, va male per noi. Se la perderemo, e purtroppo pare così, io non sarò più ricca. Perché non mi hai scritto mai questo? Perché dovevo scrivertelo? E poi io stessa, fino a pochi giorni fa, ignoravo certe cose. Oh, ma piove davvero. Vattene adesso. Si alzarono e si rifugiarono sotto la tettoia. I lampi brillarono fra le nuvole e al loro chiarore violetto Anania poté finalmente vedere Margherita, pallida come la luna. Che hai? Che hai? Chiese stringendola a sé. Non aver paura dell'avvenire. Se non sarai più tanto ricca, sarai però felice. Non temere. Oh no, tremo perché mia madre, che ha paura dei fulmini, può alzarsi dal letto. Vattene adesso, ella rispose respingendolo dolcemente. Vattene. Egli dovette ubbidire, ma rimase un bel po' sotto il portone, aspettando che la pioggia cessasse. Impeti di gioia gli illuminavano l'anima, a intervalli, violentemente, come la luce dei lampi illuminava la notte. Ricordò quel giorno di pioggia a Roma, quando il pensiero della morte gli aveva solcato l'anima come il guizzo di una folgore. Sì, il dolore e la gioia si rassomigliano, tutte e due bruciano. Ma mentre si dirigeva a casa sua, sotto gli ultimi spruzzi di pioggia, egli pensò: come sono vile. Mi rallegro della sventura del mio benefattore, che cosa lurida è il cuor umano. L'indomani mattina, per tempo, scrisse a Margherita, esponendole molti progetti, uno più eroico dell'altro. Voleva dare lezioni per proseguire gli studi, senza essere oltre di peso al suo benefattore. Voleva presentarsi al signor Carboni per fargli la domanda di matrimonio e voleva infine far capire alla famiglia di Margherita che egli sarebbe stato il suo conforto ed il suo orgoglio. Mentre finiva di scrivere la lettera, davanti alla finestra aperta, donde penetrava la fragranza delle campagne rinfrescate dalla pioggia notturna, sentì alle sue spalle uno scoppio di riso represso. Nanna, lacera e tentennante, con gli occhi pieni di lacrime e l'orribile bocca livida spalancata al riso, s'avanzava con una tazza in mano. «Buongiorno, Nanna, come va? Sei ancora viva?» «Oh, buongiorno alla Vossignoria!» Ecco che non mi è riuscito di sorprenderla. Ho chiesto in grazia a zia Tatana di portarle il caffè. Eccolo qui. Ho le mani pulite, Vossignoria. Oh, che consolazione, che consolazione. E dov'è l'eccellenza con cui parli? Da qui il caffè e dammi tue notizie. Ah, noi viviamo nelle tane, come bestie feroci che siamo. Come posso dare del tuo alla Vossignoria, che è un sole risplendente? Oh, non sono più un confetto? Egli disse sorbendo il caffè dall'antica chicchera filettata d'oro. Oh, che tu sii, Benedetto. Ah, mi scusi. Ah, ricorda la prima volta che ritornò da Cagliari? Sì, Margheritina aspettava alla finestra, come la luna non può aspettare il sole. Anania si alzò e depose la chicchera sul davanzale della finestra. Poi respirò forte. Come si sentiva felice, come il cielo era azzurro, come l'aria odorava. Che grandiosità! Nel silenzio delle umili cose, nell'aria non ancora sfiorata dal soffio e dal rombo della civiltà. Anche zia Nanna non era più la donna orribile e nauseante di un tempo. Sotto l'involucro immondo di quel corpo nero e puzzante palpitava un'anima poetica. Senti questi versi? Egli gridò agitando le braccia. Ella era assisa sopra la verdura, allegra e ghirlandetta avea contesta. Di quanti fior creasse mai natura, di tanti era dipinta la sua vesta, e come in prima il giovin pose cura, alquanto paurosa alzò la testa. Poi, con la bianca man ripreso il lembo, levossi in pie, con di fior pieno un grembo. Nanna ascoltava, senza capire una parola, e apriva la bocca per dire, lo disse infine. Li ho sentiti altra volta. Da chi? Gridò Anania. Da Efescau. Non dire bugie, raccontami piuttosto tutto ciò che è accaduto a Nuoro durante quest'anno. Nanna cominciò ritornando ogni tanto a Margherita. Ella era la rosa delle rose, il garofano, il confetto, oh, i suoi vestiti. Oddio, non se n'erano mai visti di più meravigliosi. Quando ella passava, la gente la guardava come si guarda una stella filante. Un signore aveva incaricato lei, Nanna, di rubare il laccio della scarpa di Margherita. La serva della famiglia Carboni diceva che tutte le mattine la sua padroncina trovava sulla finestra lettere d'amore legate con nastrini azzurri. Ma la rosa è una sola e non può unirsi che al garofano. Ebbene, dammi qui la chicchera. Ah, concluse l'ubriacona, dandosi un pugno sulla bocca. È inutile, per Dio. Io ho visto la Vossignoria quando aveva la coda. Ed ora non posso abituarmi a darle del lei. Ma quando è che io avevo la coda? Gridò Anania minaccioso. La donna scappò, tentennando, ridendo, turandosi la bocca e dal cortile disse, rivolta alla finestra di Anania: La coda della camicia! Egli continuò a minacciarla, ella continuò a barcollare e a ridere. Il porchetto, slegatosi, andò a fiutarle i piedi. Una gallina saltò sul collo del porchetto, piluccandogli le orecchie. Un passero si posò sul sambuco, dondolandosi elegantemente sull'estremità di una fronda, e lo studente si sentì così felice che si mise a cantare altri versi del poliziano. Portate, venti, questi dolci versi dentro all'orecchio della ninfa mia. Egli sembrava di essere agile e leggero come il passero sull'estremità della fronda. Più tardi andò nell'orto dove poté consegnare alla serva di Margherita la lettera già preparata. L'orto, ancora umido per la pioggia notturna, esalava un forte odore di terra bagnata e di vegetazione secca. I bruchi avevano ridotto i cavoli a mazzi di strani merletti grigiastri. Le altee filogranate di boccioli e adorne di fiori violacei senza stelo tagliavano lo sfondo azzurro del cielo coi loro disegni bizzarri. Sull'orizzonte perlato le montagne sorgevano vaporose, coi picchi più lontani immersi in nuvole d'oro. In un angolo dell'orto Anania trovò Efes Cau ubriaco, invecchiato, ridotto ad un mucchio di stracci, e lo toccò col piede. L'infelice sollevò il volto, che pareva una maschera di cera affumicata, aprì un occhio vitreo e mormorò il suo verso favorito. Quando Amelia si pura e si candida, poi ricadde, senza aver riconosciuto lo studente. Più in là, zio Pera, cieco del tutto, si ostinava a estirpare le male erbe che riconosceva al tatto e all'odore. «Come state?» gridò Anania. «Sono morto, figlio mio», rispose il vecchio. «Non vedo più, non sento più». Ah, coraggio, guarirete. Nell'altro mondo, nel mondo della verità, dove tutti guariremo, dove tutti vedremo e sentiremo. Ah, figlio mio, non importa, quando io vedevo con gli occhi del corpo, la mia anima era cieca. Adesso invece io vedo, vedo con gli occhi dell'anima. Ma raccontami, hai veduto il Papa? Uscito dall'orto, Anania girovagò per il vicinato. Sì. Cantuccio di mondo era sempre lo stesso. Ancora il pazzo, seduto sulle pietre addossate ai muri cadenti, aspettava il passaggio di Gesù Cristo, e la mendicante guardava di sbieco la porta di Rebecca, sul cui limitare la misera creatura tremava di febbre e fasciava le sue piaghe. E Maestro Pane, fra le sue ragnatele, segava le tavole e parlava fra sé ad alta voce, e nella bettola la bella Agata civettava coi giovani e coi vecchi. E Antonino e Bustianeddu si ubriacavano e di tanto in tanto scomparivano per qualche mese e ricomparivano con volti un po' sbiancati dal servizio del re, il carcere. E zia Tatana preparava ancora i dolci per il suo diletto ragazzino, sognando il giorno della sua laurea e già numerando col desiderio i presenti che amici e parenti gli avrebbero inviato. Ed Anania Grande, nei giorni di riposo, ricamava una cintura di cuoio, seduto in mezzo alla strada, e pensava ai tesori nascosti nei nuraghes. No, niente era cambiato. Ma lo studente vedeva le cose e gli uomini come ancora non li aveva veduti, e tutto gli sembrava bello, di una bellezza triste e selvaggia. Passava e guardava come uno straniero. E nel quadro di quei tuguri neri e cadenti, in mezzo a quelle figure semplici e primitive, gli sembrava di essere un gigante di passaggio. Sì, gigante ed uccello. Gigante per la sua superiorità e uccello per la sua gioia.